Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera. Nella fase di convivenza col virus, la qualità dell'aria indoor sarà probabilmente un parametro per stabilire se i luoghi pubblici siano accessibili e a quali condizioni. Ad oggi non è ancora chiaro fino a che punto la trasmissione del virus possa avvenire a distanza, né se vi possa essere un ruolo degli impianti di aerazione nel ridurne o incrementarne la diffusione. Ma una cosa è certa: più in un ambiente si assicura il ricambio di aria, più è improbabile la contaminazione a causa di un qualunque agente patogeno trasmissibile per via aerea. Tuttavia ci sono dei dettagli tecnici da considerare per utilizzare al meglio gli impianti di ventilazione o condizionamento in chiave anti-Covid, e a tal proposito AICAR, l'Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento e Refrigerazione, un'associazione culturale che promuove la cultura termotecnica, ha rilasciato pochi giorni fa una sorta di vademecum. Ne parliamo con Francesca D'Ambrosio, professore ordinario di fisica tecnica ambientale dell'Università di Salerno e fino a ieri presidente di AICAR. Buonasera D'Ambrosio. Buonasera a lei. Dunque, per evitare confusione, intanto chiariamo subito che non stiamo parlando di quei condizionatori casalinghi che si possono comprare anche al supermercato, quelli che tipicamente si appendono al muro e hanno l'unità esterna. Questi apparecchi si limitano a riscaldare o raffreddare l'aria già presente nell'ambiente. Qui parliamo invece di quegli impianti centralizzati che si trovano tipicamente negli ambienti pubblici. D'Ambrosio. Beh, io direi innanzitutto che l'impianto di climatizzazione o di condizionamento è qualcosa di molto più complesso rispetto al condizionatore domestico, perché non solo riscalda o raffresca l'aria a seconda delle stagioni, ma può anche, come lei diceva, ricambiare l'aria interna immettendo nell'ambiente aria esterna che preventivamente, attraverso dei componenti dell'impianto, viene anche purificata in modo idoneo. Inoltre, gli impianti di condizionamento umidificano e deumidificano l'aria, certo. Quindi creano all'interno degli ambienti le condizioni microclimatiche idonee per quello che si chiama comfort termico. Allora, e qui veniamo al cuore, diciamo, di questa puntata. Voi avete dato delle indicazioni su come utilizzare al meglio questo tipo di impianti, quindi non tanto quelli domestici quanto quelli presenti nei luoghi pubblici, in chiave anti-Covid. Allora, quali sono le regole auree, diciamo così, da seguire? Dunque, io direi che inizialmente dobbiamo riferirci a impianti di condizionamento ben progettati, ben mantenuti e ben gestiti. Quindi io limiterei appunto l'interesse a questo agli impianti, ecco, non al resto, non agli impianti domestici, perché credo che la gente debba sentirsi tranquilla quando va a fare la spesa o quando ricomincerà a entrare nei negozi, nei cinema, nei ristoranti, nei teatri, e quindi a riprendere la vita. In questo momento, e sottolineo in questo momento, è importante che ci sia una regolazione impostata per avere la massima portata di aria esterna. È importante evitare il ricircolo dell'aria tra locali attigui, ma va anche mantenuto negli ambienti un adeguato livello di umidità. L'umidità deve essere mantenuta, l'umidità relativa dell'aria deve essere mantenuta a valori superiori almeno al 30%, perché al di sotto di questo valore le mucose, che sono la prima difesa in qualche modo dell'organismo, potrebbero seccarsi. 40% è un valore compatibile e con questo fatto, diciamo, fisiologico e con esigenze impiantistiche. Poi c'è il problema dei recuperatori di calore. Devo dire che questo problema più degli altri è di tipo tecnico, e AICAR su questi temi tecnici dà indicazioni molto precise nel protocollo che è disponibile sul suo sito. Ecco, ricordiamo che i recuperatori di calore sono degli apparati che servono a non sprecare il calore o il fresco, diciamo così, che si è accumulato all'interno di un ambiente quando si ricambia l'aria, quindi nei sistemi presenti appunto negli ambienti un po' più sofisticati, cinema, eccetera, eccetera, spesso sono presenti questi oggetti. E voi suggerite fondamentalmente di non utilizzarli in questo momento particolare, se ho ben capito. Diciamo che in questo momento sarebbe importante escluderli dall'impianto con tecniche che i tecnici, scusi il bisticcio di parole, conoscono bene, se non altro per aumentare la portata di aria esterna immessa negli ambienti. Ecco, perfetto. Quindi diciamo che il messaggio, forse se dovessimo sintetizzarlo in modo brutale, è che mentre normalmente in questi impianti si fa attenzione, per esempio, anche al consumo energetico, eccetera, eccetera, in questo momento la priorità è ventilare il più possibile. Certo, In questo momento di emergenza sanitaria gli aspetti energetici devono passare in secondo piano. Quali sono gli ambienti nei quali la ventilazione o condizionamento può fare la differenza, sempre in chiave anti-Covid? Beh, indubbiamente quelli che una volta riaperti sono a rischio assembramento, quindi uno per tutti citerei teatri e cinema, che però potranno essere riaperti purché correttamente ventilati, e probabilmente bisognerà comunque prendere delle misure di distanziamento sociale. Certo, quindi magari insomma ridurre la capienza delle sale. Sbaglio o questi ambienti per legge devono comunque avere dei sistemi di ricambio dell'aria, di condizionamento e ventilazione? Assolutamente vero, ecco. Sì, ha ragione. Ci sono invece degli altri ambienti che sono frequentati dai bambini che non hanno questo obbligo, penso alle scuole, lì come si fa? Le scuole sono un punto dolente in questa situazione. Oggi soltanto alcune scuole di nuova costruzione sono dotate di impianto almeno di ventilazione. Le scuole vanno ventilate, questo è un imperativo. Laddove non ci fosse l'impianto, bisognerà rendere obbligatorio aprire spesso le finestre, a prescindere dal clima esterno. Allora, grazie Francesca D'Ambrosio, ci dobbiamo fermare qua, ma ritornerei, diciamo, domani, se lei è d'accordo, sull'argomento. Con grande piacere. Cari ascoltatori, a domani.